hip hop, um contador de história pós-moderno. Assaco humana, fenômeno retrospectivo do verso. Manipulação global, seja bem-vindo ao século 21. Prepare-se para a grande viagem, milênio, milênio, milênio. Generazione di spostati, disincantati, privati di riferimenti certi, di fronte a spazi aperti, prospettive chiuse, troppe scuse, chiarimenti zero. Solo un'altra strada senza uscita in direzione tempi dello sclero. E anche se spero di sbagliarmi, spero di salvarmi, e anche se sonno può distrarmi, cerco di svegliarmi. Puoi contraddirmi, ma giorno dopo giorno c'è una schiera di esauriti pronti a sostenermi. Uno stratega in lotta per restare in piedi, anche se non ci credi, avverte forze oscure che non vedi. Il vuoto che ci circonda a 360 gradi, strati di paranoia legate ad avvenimenti presenti e passati. Ci ho riflettuto e ora so da dove vengo e dove voglio andare. Spero di averlo capito, abituato a credere in me stesso. Del resto mi sto tirando su da solo in un contesto freddo come il polo. Stato di ipnosi, di crisi, uomini illusi, padroni di destini dispersi nella sorte. Nella maggior parte dei casi esclusi dalle scelte. Stato di morte sociale, sclero collettivo nel villaggio globale. Morale del più forte, un vitalismo che prescinde dalle proprie forze, dalle proprie carte. Solo un gioco di statistica per il dominio. Laboratori sotterranei producono tecniche per lo sterminio senza capisaldi etici. Uomini sintetici prodotti da dei Frankenstein genetici subiscono i meccanismi biologici. Masse statiche sostituiscono le masse mobili. Sarà il collasso del sistema in un futuro prossimo. Una guerra nucleare come minimo. Sarà l'apocalisse, lo spostamento verso il blu delle galassie e la disgregazione delle masse. Millennium. Millennium. Millennium. Millennium. Cérebro dinâmico, didático, cultura milenar. Mistura tribal, chegou carnaval, golpe verbal, você pode acreditar. O homem macaco à busca do futuro obscuro. É como espaço solar, longínquo, meteórico e confuso. Não, não fique puto. Isso é guerra, morte, poder, homem, religião, nação. Transformação, transfusão, salve a voz do gueto, comunicação. Hip hop milenar, rima antropófaga, histórica, infracultura universal. Maluqueiro periférico, vou fundir sua mente, reestruturação cultural. Índio pós-moderno, animal rústico, tupi na boca do povo. Nasce guerreando últimos moicanos, como nós tradamos, previo o futuro do meu povo. Uma bomba é pouco pra me manter louco nesse final de século. Bem-vindo ao céu, inferno, sinto. Acho que estou errado, então me digo que está certo. Babel, Colosso Glacial, América, Ásia, África, Europa. Navego pelo templo da vida, a qualquer momento posso estar batendo em sua porta. Como Curupira, mão branco, matador, um diabo, um deus. Al Capone disfarçado de xerife, pirata medieval, um zumbi plebeu. Animalístico, ancestral, donos de usinas de pensamentos. Bifurcação constante, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Vênus. Constelação de rimas, palavreado, fugaz ou vulgar. Todo mundo quer tudo na hora e agora ninguém quer se esforçar pra ir atrás. Os intocáveis, guerras sem fim, revólveres que atiram ignorância. Astronautas, cobaias, políticos, teletubbies, manipuladores da ganância. Carnaval ilusório, apartheid, senex, um por um, chega hora do boom. Só nasce pra todos, mas nem todos conseguem ver o sol nascer. Milênio. Milênio. Milênio. Milênio. Milênio. Yo. Ed è un concetto che si espande, tange strade per chi piange, c'è un progetto in carcere. Cultura spangia, suona in frangi, in copertura frange. Questo è pop, bambino scopi. Ma stai in cattura e sai che intoppi dentro un mondo malato di zombie. No speranza, resta sfondo nero in fondo ad una stanza. Solo col mero mio pensiero ora proseguo in casa. Dentro me balza assieme a me questa attitudine. Danza e cielo, battito sul ferro, cuore incudine. Fulmine in cielo, fulmine zelo, ultima il velo di gelo che ricopriva nero, il vero ora ridotto a zero. Un'esplosione di colori che rimbomba in tante. Devastante, suoni, odori, tuoni, sgorgan da distante. In un istante, la connessione prende vita. Atterrante, il branco, la missione stretta tra le dita. Altro che cita, cita, non siamo in gita, mica. Semplicemente ardenti indetti tra la mente in vita. Il mio pensiero ed il confronto, l'asfalto e il racconto. Di storie differenti incontro, ma lo scontro. Già oltre i confini, sai, perverse se la gente avversa. Che immersa dentro il nulla spersa, scorda il vero senso. Per ogni impegno esiste un regno, in tanti esiste un segno. Come legno dentro il mare aperto, ora sollevo ingegno. Dal medioevo volevo traiettori in segno. Canta storie ai bordi di una strada nel nuovo millennio.